Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Sarebbe interessante ricostruire la storia del calcio attraverso le figure dei presidenti. Questi, scorrendo gli annali dello sport più seguito d'Italia, presentano un'eccezionale varietà di casi interessanti, pittoreschi, curiosi, diversi gli uni dagli altri. Gentiluomini d'altri tempi o arroganti faccendieri, vulcanici capitani di ventura o scaltri imprenditori che hanno concepito il calcio come propaganda, oppure semplicemente uomini d'affari innamorati del pallone di una squadra e pronti a rovinarsi per questa. Per la maggior parte però le storie dei presidenti sono legate a doppio filo a quelle dei grandi campioni che hanno acquistato per far sognare i propri tifosi. La nostra storia di oggi riguarda proprio uno di questi tanti incroci tra presidenti e giocatori. A renderla particolare però ci pensano l'eccezionalità delle due figure e la maniera rocambolesca che li vedrà uniti per la stessa causa. Anno 1967, come tutti gli anni in estate arriva il momento che tutti i tifosi attendono. Il calciomercato. In quegli anni il mitico centro del calciomercato italiano è l'Hotel Gallia di Milano. L'hotel viene fondato nel 1932 ed è da subito uno degli alberghi più importanti della città e dell'Italia intera. Le sue elegantissime 237 stanze e i corridoi interni fatti di stucchi e di lusso, sin dagli anni 30, diventano un punto d'appoggio per uomini d'affari e una delle sedi privilegiate di conferenze stampa e presentazioni di eventi. Il calciomercato arriva al Gallia negli anni 40. Ogni squadra di Serie A e B ha una stanza dove si bussa, anche in piena notte, si entra e si contrattano vendite e acquisti dei calciatori. Gli anni 50 e 60 sono i decenni che trasformano la prassi del calciomercato in una romantica e raffinata mitologia. I tifosi accampati fuori dall'albergo in attesa dei colpi, i telefoni che squillano, l'andirivieni di dirigenti, presidenti, operatori di mercato dalla vicina stazione centrale, il fumo delle sigarette, fumate nervosamente che crea una fitta nebbia nei corridoi dell'albergo. E poi i personaggi leggendari, veri pirati del mercato dei giocatori che danno vita a trattative appassionanti. Come non citare il principe Raimondo Lanza di Trabia, presidente del Palermo, a cui si deve di fatto la scelta del Gallia come sede delle trattative per via dei suoi incontri con l'allenatore Gipo Viani, un vero dandy, il principe, che amava condurre le trattative dalla vasca da bagno, a bordo della quale non si faceva mai mancare una bottiglia di champagne e un telefono. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Oppure il grande Italo Allodi, manager e grande artefice della grande Inter, scaltro, infallibile operatore di mercato, in grado di allungare i propri tentacoli su qualsiasi pezzo pregiato del calcio italiano. A questo proposito, abbiamo chiesto al segretario generale della società Allodi che incassi ha fatto l'Inter nello scorso campionato. Credo sia un record assoluto, 1,3 miliardi, credo abbia battuto completamente ogni record mondiale. E qual è stato il movimento finanziario nella campagna acquisti e vendite giocatori? È circa 1,1 miliardi. Solo qua. Per non parlare dei giornalisti, doveroso citare Gianni Brera, che in quegli anni entra al Gallia presto alla mattina con il suo taccuino e ne esce la sera sapendo più cose dei dirigenti stessi. Superando i tifosi che lo implorano di rivelare loro qualcosa, a Brera bastava attraversare la strada per raggiungere la redazione del Guerin Sportivo, di cui era all'epoca il direttore. Quell'estate del 1967 si registra l'assenza, dopo tanti anni, di un altro principe del calciomercato, un'altra figura che ne ha scritto la storia. Si tratta del nostro primo personaggio di oggi. Il suo nome è Achille Lauro. Achille Lauro. Un personaggio controverso, Achille Lauro, una sorta di monarca assoluto del XX secolo. Per decenni è stato padrone del Napoli, rivestendone per lungo tempo anche la carica di presidente. Uno dei tanti uomini d'affari malati di gigantismo, che pur avendo una vera e genuina passione per il calcio, concepiva il pallone più come uno strumento di propaganda per le sue vicende politiche e imprenditoriali. Sta di fatto però che negli anni d'oro del calciomercato Lauro imperversa al Gallia con colpi ad effetto e uno stile imprevedibile ed eccentrico. Qualcuno racconta ad esempio che amasse particolarmente ricevere gli interlocutori dei suoi affari calcistici nelle stanze dell'albergo in costume adamitico. Ero più guappe vascia sanità, mo caccio perso tutta a guapparia. Cacciatemi una tinta società, Shatata va guagnuna e malavita. Achille Lauro aveva portato a Napoli, tra gli altri, il bomber svedese Jeppson nel 1952, accettando la richiesta dell'Atalanta di 75 milioni di lire, cifra per l'epoca spaventosa, con un ingaggio di 30 per il giocatore. Era l'anno di campagna elettorale e Lauro si presentava nella sua Napoli come sindaco. Questo eccesso di sperpero calcistico porterà addirittura niente meno che Giulio Andreotti a prendere posizione. Mai più permesso di soggiorno ai giocatori stranieri che verranno in Italia, tuonerà il divo Giulio. Provvedimento però prima aggirato dal mondo del calcio attraverso gli oriundi e poi del tutto seppellito. Ne seguiranno altri, ad esempio Omar Sivori, strappato alla Juventus quando inizierà a imboccare la sua parabola discendente nel 1965, dopo una laboriosa trattativa con la famiglia Agnelli, conclusa solo grazie a un memorabile guizzo di Lauro. Si dice che l'ultimo giorno di mercato, infatti, Lauro, piombato al Gallia, fosse stato informato delle resistenze degli Agnelli alla cessione di Sivori. «C'ha già pensai io», pare abbia detto, chiedendo alla sua segretaria di chiamargli al telefono l'avvocato Agnelli. Interrogato in proposito, l'avvocato conferma. La Juve non vuole cedere Sivori al Napoli. I manager della Juventus sono autonomi e all'avvocato non va di contraddirli, non c'è nulla da fare. Mentre si sta per chiudere la conversazione, Lauro aggiunge un dettaglio. «Ah, dimenticavo», dice l'armatore, «sulle mie due nuove petroliere avevamo discusso e quasi chiuso per due nuove turbine Fiat». I miei tecnici mi dicono che i motori Rolls-Royce, senza offesa, sono più affidabili. Sapete, mi dispiace contraddirli. Lauro posa la cornetta. Passano 5 minuti e il telefono squilla. È Roberto Fiore che Lauro aveva posto come presidente del Napoli. La Juve ha cambiato idea e vende Sivori al Napoli. Complimenti, Fiore, chiosa l'armatore. Siete riuscito a convincerli. Sembrano gli ultimi fuochi calcistici di Lauro, che nel 1967 pare avere imboccato la parabola discendente. Non a caso diserta il Gallia, vi spedisce il figlio Gioacchino, appena nominato presidente al posto di Fiore, e ordina vendere, vendere, vendere. Non andrà proprio così. Prima di proseguire con il calciomercato 1967, soffermiamoci ancora un po' su Achille Lauro. Chi è esattamente questo monarca moderno e come è giunto alla presidenza del Napoli? Achille Lauro non nasce proprio a Napoli, ma a Sorrento, il 16 giugno del 1887. È il penultimo dei 6 figli dell'armatore Gioacchino Lauro, che lo spinge subito a prendere confidenza con il mare, anche con la forza. È su imposizione del padre, infatti, che nel 1901, appena 14enne, viene imbarcato per punizione paterna sul Navigatore, una nave commerciale sperduta in pieno Oceano Atlantico, come marinaio. L'imbarcazione naufraga e Lauro, a detta dei testimoni, mantiene nel disastro un inusitato coraggio e un'insolita lucidità, nonostante sul Navigatore si rischi di morire per assenza di acqua e di cibo. Non si perde d'animo, anzi è ligio ai suoi doveri di marinaio. Ancora giovanissimo, Achille Lauro prende il timone, il caso di dirlo, della flotta del padre, diventando così uno degli imprenditori più in vista della scena italiana. La sua famiglia si trasferisce a Napoli, in via dei Mille, che diventerà la sua sfarzosissima reggia. Quando gentise prima mandolino, e chi stavese do sole, e chi stavese do mare, e chi stavese a do tutto. Parole so dolce so amare. Durante gli anni del fascismo, Achille Lauro si avvicina al regime di Mussolini, tanto da venire nominato consigliere nazionale alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Proprio durante il ventennio, Lauro rileva da Giorgio Ascarelli il Napoli Calcio. È nel secondo dopoguerra che per Lauro calcio, politica e imprenditoria si mescolano in maniera strettissima. Dopo aver aderito all'Uomo Qualunque, il provocatorio movimento di Guglielmo Giannini finanzia in maniera determinante il Partito Nazionale Monarchico fondato da Alfredo Covelli, nelle cui fila inizia la sua carriera politica. La sua squadra di calcio gli serve ora come cassa di risonanza per le sue attività principali, secondo la logica da lui stesso più volte citata del «panem et circenses», A finanziare il tutto, calcio e politica, la sua attività imprenditoriale, che gli garantisce mezzi e risorse. Nel 1952 Achille Lauro si candida come sindaco di Napoli. Occupato e preoccupato da un lavoro intenso ed assiduo, ad uso per molti anni della sua esistenza, più che alla conversazione col pubblico, alle lunghe meditazioni dinanzi alla sconfinata e muta distesa dei mari. Ma ciò nonostante sono pervenuto anch'io alla politica, perché la considero un dovere degli uomini che occupano posti di responsabilità. Ho ritenuto opportuno farvi questa premessa a carattere personale per dirvi in effetti che io sono come uno di voi, cioè sostanzialmente estraneo agli intrighi della politica, e per chiedervi al tempo stesso scusa se stasera io mi limiterò ad un colloquio alla buona con voi per illustrarvi i postulati del Partito Democratico Italiano, il quale, essendo il partito dei monarchici, è come tale idealmente legato agli istituti ed ai principi del Risorgimento, riafferma nell'attuale clima di decadenza di tutti i valori dello spirito la validità di quel complesso di ideali che già fecero grande ed una l'Italia e che devono ancora oggi rappresentare il lievito indispensabile per un effettivo progresso dell'ordine, della libertà, della democrazia. Lauro a Napoli gode di una fama gigantesca. O comandante, come viene chiamato dai partenopei, è un uomo venerato come un monarca dell'Ancien Régime. Se le sue doti di armatore sono indiscusse, curioso è addirittura il fatto che nascano leggende sulle sue doti di armatore, che ne rendono la figura ancora più ammirata da una parte cospicua della popolazione napoletana. Lauro arringa la folla nei suoi comizi, promettendo che Napoli diventerà un gigantesco cantiere che darà lavoro a moltissimi disoccupati, che trasformerà la città in pochi anni in un paradiso turistico, la vera perla del Mediterraneo. La sua propaganda è capillare quartiere per quartiere, i suoi galoppini bussano a ogni basso distribuendo pacchi dono, derrate alimentari e le leggendarie banconote tagliate a metà insieme a scarpe spaiate. L'altra metà della banconota è la seconda scarpa, solo se o comandante sarà eletto. Il pontefice Pio XII, attraverso il segretario della Democrazia Cristiana Gonella, decide di contattare monarchici e missini per favorire la presentazione di liste civiche in funzione anticomunista. Gonella incontra Lauro nel santuario di Pompei, ma Lauro rifiuta l'apparentamento con la DC e vara un'alleanza tra partito monarchico e Movimento Sociale Italiano. La Chiesa, però, continua neanche troppo velatamente ad appoggiare Lauro, che pare il candidato più forte in prospettiva anticomunista. Il risultato di tutto ciò è che l'imperatore viene incoronato, stravince le elezioni, raggiungendo preferenze record per le elezioni amministrative di Napoli. La coalizione di destra, che sostiene Lauro con 208.000 voti, conquista 53 seggi contro i 15 della DC e i 12 della sinistra. Il 7 luglio, con 50 voti su 73 consiglieri presenti in aula, Lauro viene eletto sindaco e tiene il suo discorso della corona, elegantissimo, col suo doppio petto blu e la punta del fazzoletto. Si sente il padrone della città e dichiara solennemente che costruirà tantissime case. Questa promessa sarà mantenuta purtroppo anche oltre le previsioni, dal momento che sotto la sua amministrazione inizia a Napoli quel selvaggio processo di abusivismo edilizio che il regista Francesco Rosi ritrarrà nel bellissimo film Le mani sulla città. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E mo cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila. Eppure di più. Agli amici più intimi confesserà: rimarrò sindaco 3 mesi, poi torno alla flotta. Il tempo di fare approvare la legge speciale sull'edilizia. Invece, pur con alcune interruzioni imposte dal governo centrale, Lauro segnerà la vita e l'amministrazione della città per oltre un decennio. Per la precisione, rimarrà sovrano a Palazzo San Giacomo per 2.375 giorni. Il 2 ottobre il Consiglio Comunale, quasi del tutto privo di opposizione, non ratifica il piano regolatore, lasciando il campo, in attesa di una nuova normativa, alla più sfrenata deregulation. L'avventura di Lauro come sindaco si chiuderà alla fine degli anni 50, quando il comune di Napoli finisce sull'orlo della bancarotta. Da Roma arriva l'ordine targato DC di distruggere Lauro. Quando Lauro decide di pagare di tasca propria i Netturbini in sciopero per gli stipendi arretrati, viene subito dopo sottoposto a enormi pressioni e costretto a dimettersi. Il suo comune viene commissariato. Inizia un decennio sempre più difficile, anche per gli affari imprenditoriali di Achille Lauro e per il suo Napoli, di cui continua ad essere di fatto il padrone. Ecco spiegati i motivi dell'austerità con cui Lauro chiede di impostare il calciomercato 1967. Il figlio Gioacchino però sa che in realtà un colpo di livello potrebbe solo allietare il padre. L'allora direttore del Roma, il quotidiano di proprietà dell'armatore Alberto Giovannini, suggerisce a Gioacchino il possibile candidato. Si tratta di un portiere su cui le due milanesi, Inter e Milan, stanno duellando in una vera e propria asta. Attualmente gioca nel Mantova, ha 25 anni, ed è in grado, pare, di fare la differenza come un attaccante. Si tratta anche del nostro secondo personaggio di oggi, e il suo nome è Dino Zoff. Dino Zoff. I fatti che portano Zoff a vestire la maglia del Napoli sono di diritto iscritti nella leggenda del calciomercato, quello mitico dell'Hotel Gallia. Si avvicina la mezzanotte dell'ultimo giorno, nessuna delle due milanesi sembra essere in grado di accaparrarsi Zoff. A pochi minuti dallo scadere del termine per le trattative, il Napoli decide di sferrare l'assalto. Gioacchino Lauro, però, non c'è. Giovannini prende l'iniziativa, chiama i dirigenti del Mantova e si spaccia per Achille Lauro. Questi, onorati di essere contattati dal patrono in persona, si dicono disponibili alla trattativa e per una cifra record per un portiere, l'affare viene chiuso. Con un altro bizzarro momento thriller, quando Gioacchino Lauro fa il suo ritorno al Gallia ed entra nella sala dei contratti per depositare l'accordo con il Mantova, è 10:30. Non sarebbe regolare, ma per comandante la Federcalcio chiude un occhio e il Napoli può schierare tra i pali il suo campione. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati vi stiamo raccontando la storia degli inizi del grande Dino Zoff, che nel 1967 approda a Napoli per difendere i pali degli azzurri. Il suo approdo è una rocambolesca vicenda di calciomercato che vede protagonisti i dirigenti del Napoli e soprattutto il suo proprietario, l'armatore ed ex sindaco di Napoli Achille Lauro, che nonostante fosse intenzionato a vendere i pezzi pregiati in quel calciomercato, si ritrova invece autore del grande colpo. Dino Zoff quando approda a Napoli a 25 anni. È nato infatti a Mariano del Friuli il 28 febbraio 1942. Dino Zoff, figlio di Mario e Anna, ha sogni grandi come tutti i ragazzi della sua età. Vorrebbe fare il calciatore da grande, ma il padre non perde occasione per ricordargli il significato di certi valori della sua tradizione contadina. La fatica, il lavoro, il sudore. Papà Mario alla mattina parte per i campi e torna solo a tarda sera. Per il piccolo Dino, quindi, la priorità è chiara. Prima il lavoro e la scuola, e poi, nel caso, il calcio. E se davvero un giorno fossero venute fuori le giuste occasioni, beh, se ne sarebbe parlato. Questo però non gli impedisce di impiegare il tempo libero in sfrenate partite con gli amici. Immodestamente dico che è stata una vocazione, anche perché insomma ai miei tempi non c'erano immagini televisive, eccetera. Di conseguenza non era un'immagine che mi ha potuto così entrare nella testa e farmi fare delle cose. Probabilmente è stata così, che la palla è, per tutti i bambini è qualcosa di particolare, per me lo è stata più degli altri. Zoff trova lavoro in una officina, parte ogni mattina di buon'ora in bicicletta verso Gorizia e va a occuparsi di quella che ben presto diventa un'altra grande passione, i motori. Con le macchine in gamba e il mestiere gli piace quasi quanto parare. Si guadagna i primi soldi, 60.000 lire al mese, e i suoi padroni sono tanto contenti di lui che gli lasciano il tempo di andare a giocare a pallone, anzi, vanno anche a tifare per lui, che è tra i pali, naturalmente. Nelle prime squadre in cui milita, si mette in luce subito come un serio e grande lavoratore, con una sorta di culto per la fatica e per gli allenamenti. I suoi idoli di ragazzo sono sportivi che faticano e che stringono i denti, come Fausto Coppi, da cui impara la modestia e l'abnegazione. In lui Zoff ammira la capacità di convivere solo con la fatica del limite. Zoff, giovane portiere, cresce nella Marianese, praticamente sotto casa. In quei primi anni, però, è piccolo e gracile. Luigi Bonizzoni, che allenerà Zoff nell'Udinese e nel Mantova, racconta che il vero scopritore di Dino si chiamava Comuzzi, girava tutto il Friuli come osservatore e lo porta all'Udinese. Nelle fila dei bianconeri il friulano Zoff si forma fisicamente e capisce che la carriera da calciatore può essere la sua strada. Una brutta domenica di fine estate, il 24 settembre del 61, quando Dino ha solo 19 anni e mezzo, Bonizzoni lo butta in campo contro la Fiorentina per l'esordio in Serie A. Così, quasi inaspettatamente. E Zoff incassa 5 reti. Forse l'unica esperienza non positivissima è stata proprio a Udine, perché ero giovane, perché ero del posto, perché non ho giocato bene un anno. Poi la retrocessione e la prima stagione da titolare in Serie B. Sono due anni non facili, con tanta freddezza intorno da parte di società e tifosi. E quindi poi l'Udinese si è disfatta di me, perché questa è la realtà, e quindi sono andato al Mantova e lì è cominciato, insomma, l'ascesa nell'ambito calcistico. Zoff viene ceduto al Mantova ancora a Serie A, ritrova Bonizzoni in panchina e ritrova la serenità. L'allenatore anni dopo ricorderà così il suo arrivo a Mantova in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Beh, lo vidi arrivare con una 600 elaborata che filava velocissima. Il cofano era legato con una cinghia perché rischiava di alzarsi controvento. Sì, Dino non aveva dimenticato come si curano i motori, ma quella macchina mi sembrava un rischio assurdo e gliela proibii. A Mantova, oltre alla continuità di rendimento, Zoff trova anche la famiglia e l'amore con Anna, che sposerà. Trascorre 4 anni in cui diventa uno dei più interessanti giovani portieri della massima serie, prima di quel trasferimento rocambolesco ai partenopei di Lauro. Sulle sue tracce, l'Inter e il Milan. Andrà al Napoli all'ultimo secondo, forse oltre. E Napoli sarà un altro passo nella costruzione del mito Zoff. Margherita la vetta chiama Napoli. Dino Zoff al Napoli, quindi, sul trampolino che lo porterà a diventare un mito del calcio italiano, proprio mentre il patron Achille Lauro ha imboccato la parabola discendente. Nelle traiettorie di questo incrocio del tutto particolare, in cui uno sale e l'altro scende, si delineano i contorni di una delle stagioni più fortunate della storia del Napoli pre-Maradona. La stagione 1967-1968 vede 16 squadre al via dopo 24 anni di torneo a 18. La prima giornata vede il Napoli opposto all'Atalanta. Zoff è già un idolo al San Paolo. In un amichevole contro gli argentini dell'Independiente ha messo in mostra una prestazione mostruosa, guadagnandosi un soprannome roboante, Nembo Kid. L'esordio in campionato con la maglia del Napoli è datato 24 settembre 1967 contro l'Atalanta. Finisce 1-0 per i partenopei, che mettono in mostra un buon gioco grazie a talenti stagionati ma ancora in grado di fare la differenza come Sivori e Altafini, e all'efficacia di Capitan Giuliano e di Ottavio Bianchi. Zoff sembra però il valore aggiunto di quella squadra. Negli anni Achille Lauro aveva speso cifre importanti per acquistare nomi altisonanti raccogliendo solo briciole. Ora però, anche grazie alla difesa chiusa a doppia mandata da Dino Zoff, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per dire la loro per il titolo. Fino a dicembre il Napoli rimane lì con le prime, Milan e Roma. Poi la Roma cede, il Milan invece diventa irraggiungibile, trascinato dalle giocate di Gianni e Rivera, prossimo pallone d'oro. I partenopei reggono per il resto della stagione. Nembo Kid, come viene chiamato Zoff, risulta il miglior portiere del torneo. Il Napoli è secondo, il miglior piazzamento della proprietà Lauro. Zoff conquista anche la porta della nazionale in quel 1968. Si disputano i campionati europei, la fase finale è proprio in Italia. Non solo, la semifinale si gioca a Napoli, davanti al suo pubblico, Italia-Unione Sovietica. Tutta una città in porta, insieme a Nembo Kid. Ed ecco la fine della gara, 0-0. Per il passaggio alla finale deciderà il sorteggio che verrà fatto negli spogliatoi. La finale si gioca a Roma contro la Jugoslavia, una delle nazionali più forti d'Europa. Saranno necessari due match per domarla e soprattutto nel primo, concluso in parità 1-1, Dino Zoff deve usare tutta la sua classe per impedire alla squadra balcanica di dilagare dopo il vantaggio iniziale. Insomma, nel giro di un anno Dino Zoff, grazie a uno straordinario intrigo di calciomercato, passa dal Mantova al titolo europeo, acclamato e amato da una città intera. Voglio proprio vedere.